Non voglio mica la luna, voglio soltanto ascoltare due di denari come Assa e la Rossani anche domani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso. Cara Deborah, buongiorno. Ionizzatori d'ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali, filtranti, copri sanitari, integratori alimentari, è arrivato la rotino. Sì, ripariamo anche le vostre cucine a gas. Ci mancavano i truffatori, cioè i serpenti corallo del virus. Non vendono però l'elisir di Mauro Meazza. No, forse anche loro chissà hanno un'etica, contrariamente a Leonardo Manera. No, però la Guardia di Finanza, Comando Provinciale di Torino, è dovuta intervenire perché c'era chi aveva messo in piedi uno shop digitale, il coronavirus shop, ecco. E quindi sul web propagandava, vendeva, cercava di vendere, ma sarebbe più corretto dire cercava di imbrogliare con questi presunti prodotti antivirus. 14 imprenditori, tutti italiani, accusati di frode in commercio. Questi avevano veramente un senso dell'impresa molto, molto spiccato, sì, e tempestivo, esatto. Ricordiamo anche un'altra cosa, sappiamo che in diverse regioni ci sono questi tentativi di truffa, specialmente a carico di persone anziane, persone che telefonano o citofonano addirittura e dicono dobbiamo fare un tampone per il servizio sanitario. Non è assolutamente così, non funziona così, il tampone non viene fatto a domicilio in queste modalità. Quindi se vi telefonano, vi citofonano dicendo siamo della ASL, siamo della sanità, dobbiamo fare un tampone, mettete giù il telefono, il citofono, non rispondete, sono dei male intenzionati. Devo dire che questo tentativo di truffa in particolar modo si è messa in azione subito, non appena un paio di settimane fa appunto è partito l'allarme nel nostro territorio, però subito tutte le autorità preposte, a partire anche dalla Croce Rossa, io faccio riferimento per esempio al manifesto, al cartello che ho fisso nel mio condominio ed è un vademecum come proprio della Croce Rossa che invita i cittadini a non cadere anche in questi trappoloni e quindi altri serpenti corallo in circolazione, il serpente corallo ai tempi del coronavirus, come si direbbe in questo, sì, appunto, in questo il momento. Serpente corona. Allora, eccolo non qua. Ne sentivamo la mancanza, però ebbene ce l'abbiamo pure lui, lo mettiamo nel nostro catalogo. Non è previsto, ma invece ci sono molti, moltissimi utili consigli nell'instant book che trovate oggi in edicola con il Sole 24 Ore. Ci sono le risposte degli esperti, dei medici che sono stati proprio interpellati qui a Radio 24 da Nicoletta Carbone. Della ci sono CIMIT, le indicazioni, ci sono indicazioni per le imprese, per le famiglie, il glossario di questi nuovi tempi contagiosi, verrebbe da dire. Ricadute sui mercati finanziari che raccontiamo pure ogni giorno. E tutto questo in un centinaio di pagine, oggi in edicola con il Sole 24 Ore, 50 centesimi più il quotidiano coronavirus. Guida antipanico l'abbiamo chiamata, speriamo che assolva al pieno a questa funzione che le abbiamo assegnato. Continueremo naturalmente a parlare di questo argomento, soprattutto per i temi che sono di nostra pertinenza, le ricadute nella vita microeconomica, chiamiamola un po' così, ma oggi è giovedì, facciamo regolarmente Investire Informati e oggi ci occupiamo di un tema molto importante per tutti gli ascoltatori e speriamo che a questo tema possano riprendere a dedicare la dovuta e serena attenzione quando questa emergenza sarà scomparsa dai nostri radar, speriamo al più presto. Parliamo di previdenza complementare, di fondi pensione. Oggi abbiamo il piacere di avere a due di denari il presidente della COVIP, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il dottor Mario Padula, che fra poco saluteremo e con il quale faremo un po' un bilancio delle adesioni agli strumenti di previdenza integrativa. Faremo un punto, se vogliamo, anche sui loro rendimenti, ma soprattutto faremo un punto sul grado di conoscenza che gli italiani hanno della previdenza di secondo pilastro, perché in realtà, insomma, c'è ancora un pochino di resistenza ad iscriversi ai fondi pensione, chiusi, aperti i piani individuali appunto di previdenza, e quindi cercheremo di capire perché ancora i lavoratori italiani percepiscono come qualcosa di lontano questo tema, se vogliamo così definirlo così. E allora i numeri poi per porre, per intervenire in diretta o per mandarci le vostre osservazioni, domande, richieste di chiarimenti sono quelli abituali, ve li riepilogo: 800240024 è il numero verde, 349-238-6666 se volete inviarci un sms o un whatsapp. Il presidente della Covip poi ci illustrerà, appunto il dottor Mario Padula ci illustrerà le prospettive di questo comparto, che in realtà appunto con le previste riduzioni via via negli anni della erogazione della previdenza di primo pilastro, insomma l'INPS e le casse ad esempio, ebbene diventano questi i fondi pensione diventano sempre più importanti per garantirsi una rendita in più nel momento di ritiro dal lavoro. Deborah, abbiamo comunque un giornale Radio del Risparmio? Ma non solo ce l'abbiamo, stamattina è veramente anche attualissimo e ricco di notizie interessanti. Via! Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Noi perseveriamo nel tentativo di sdrammatizzare le notizie che dobbiamo dare tutti i giorni. Allora, sapete che ieri è stata disposta la chiusura fino a tutta la prossima settimana di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel nostro paese. Questo naturalmente ha determinato il lancio di un altro allarme collaterale. E le famiglie come fanno? Naturalmente le persone lavorano e quindi non sempre è facile prendersi cura dei figli che obbligatoriamente devono rimanere a casa in questo periodo. Per cui il governo a che cosa sta pensando, Mauro? Sta pensando a qualche possibilità di sostegno per i costi delle babysitter o anche, che ne so, per la tutela dei nonni, che in questo momento, in questa fase, sono diventati essenziali per chi ne può disporre per la cura dei bambini e dei ragazzi che non sono appunto impegnati a scuola. Allora, il ministro per la famiglia Elena Bonetti ha detto che il governo sta pensando a possibilità di sostegno, potrebbero essere dei voucher ad esempio riconosciuti alle famiglie. All'Europa sono stati chiesti dei fondi, la spesa che serve deve essere messa in campo, ha detto la ministra, per sostenere le famiglie. E poi c'è il tema del lavoro, anche che è molto importante, perché nei provvedimenti presi nelle ultime settimane c'è tutta una serie di iniziative in termini di ammortizzatori sociali per le imprese e i lavoratori che sono intanto nelle aree a maggior rischio, le zone rosse, in quelle a rischio alto ma a rischio un po' inferiore rispetto alla zona rossa che sono le gialle, e poi chiaramente ovviamente quello che sta succedendo ha delle ricadute pesanti sul sistema produttivo di tutto il paese, per cui in qualche maniera bisogna sostenerlo un po' tutte. Allora, che cosa si sta facendo? E allora, guarda Deborah, bisogna familiarizzare con questi strumenti di sostegno al lavoro, di sostegno al reddito: cassa integrazione ordinaria, cassa integrazione in deroga, straordinaria, eccetera. Allora io ho fatto così, ho chiamato un esperto di valore mondiale e che adesso tra pochissimo ascolterai, e gli ho chiesto di spiegarci in alcune pillole brevi questi strumenti via via indicati per le varie zone. Cominciamo dalle zone rosse, sono i 10 comuni indicati nella provincia di Lodi e il comune di Vo nella provincia di Padova. Enzo De Fusco, che è il nostro esperto, il nostro Virgilio della materia, abbiamo chiesto di riepilogarci quali provvidenze e aiuti esistono per questi comuni. Prego la scheda. In questa prima fase di regolamentazione la zona rossa è certamente quella più tutelata e quindi sono previsti ammortizzatori speciali. Quindi intanto bisogna vedere le aziende che tipo di tutele hanno a normativa vigente. Se hanno una copertura CIGO, quindi la cassa ordinaria, possono attivarla con una procedura semplificata. Questo periodo non si computerà nei limiti di durata stabiliti dalla normativa vigente e può avere anche un effetto retroattivo. Le imprese interessate sono le imprese industriali, le cooperative di produzione, le aziende edili, insomma il settore industriale in genere. Chi invece non ha la copertura CIGO, quindi la cassa ordinaria, potrà chiedere una cassa integrazione in deroga, sarà rilasciata direttamente dalla regione competente e questa può avere effetto retroattivo. Non è necessario l'accordo sindacale. Questo riguarda tutte le imprese del territorio, ovviamente non interessate dalla CIGO. Chi invece in quel territorio ha una cassa integrazione straordinaria può trasformarla in cassa speciale, quindi per il coronavirus, e in questo modo si inserisce nelle procedure semplificate che sono state previste. Iniziative del sistema bancario attivate in questi giorni per cercare in qualche maniera, se vogliamo, anche di rafforzare le misure di ricerca che sono state messe in atto in questi giorni da molti presidi ospedalieri e sanitari. In particolar modo, dopo averlo sentito da Unicredit, che lo ha fatto la scorsa settimana, nelle ultime ore si è mossa anche Banca Mediolanum, che ha devoluto 100.000 euro per sostenere l'ospedale Sacco di Milano in queste giornate difficilissime, in prima linea appunto per nell'affrontare la crisi Covid-19. Sì, sì, ma è giusto, Deborah, perché quel 19 ho letto che modo che utilizzano gli scienziati di tutto il mondo. Ma quante ne sai? No, ma lo leggo, ascolto molto la radio, specialmente, non so se conosci l'emittente, Radio 24. Davvero, l'hanno detto, sì, lì? Sì, dicono un sacco di cose interessantissime, specialmente tra le 11 e le 12 tutti i giorni. Comunque, ti volevo dire, questo 19 sta proprio per 2019, perché è stato accertato proprio in quest'anno per la prima volta. E invece stanno arrivando i primi indennizi per quasi 2 milioni di euro per quegli azionisti di Popolare Bari che avevano transato con l'arbitro delle controversie finanziarie della Consob e aveva accertato appunto l'arbitro appunto per le controversie finanziarie aveva accertato la violazione da parte della banca in sede di collocamento dei titoli degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza. Gli indennizi riguardano in questa prima fase 146 azionisti che otterranno in media 13.000 euro di risarcimento e che hanno incassato già le somme previste nelle transazioni sottoscritte con la banca nei mesi scorsi a partire da giugno 2019. Gli indennizi sono un risultato che ha ottenuto, lo dobbiamo ricordare perché è molto attivo su questo fronte, il presidente di Confconsumatori Puglia, l'avvocato Antonio Pinto, che peraltro è un esperto molto spesso interpellato su queste vicende anche dal Sole 24 Ore e da Plus 24. Do un'altra notizia invece che riguarda, ahimè, ancora l'emergenza coronavirus, ma è una notizia in qualche modo che agevola i datori di lavoro domestico, quindi chi ha una colf, una badante, una babysitter nella zona rossa, quindi i 10 comuni dei Lodi e il comune in provincia di Padova. Anche per queste famiglie ci sarà la possibilità di utilizzare il rinvio nel pagamento dei contributi. Allora, normalmente per i datori di lavoro domestico i contributi del primo trimestre si pagano entro il 10 di aprile, per le famiglie di queste zone, invece di questi comuni, si utilizzerà il rinvio che è stato disposto dal governo con il decreto legge numero 9 di pochissimi giorni fa e quindi si andrà a maggio per questo pagamento. Dottor Meazza, buongiorno, salutano solo te perché stamattina sei più simpatico di me, evidentemente. Le persone hanno lavori saltuari e flessibili, questa incertezza non favorisce la decisione di farsi una pensione, stamattina è così, non parlo in italiano, di farsi una pensione integrativa. Volevo utilizzare questo messaggio di questo ascoltatore per partire con la rubrica di oggi. Andiamo. Investire informati. Eh sì, perché anche questo è un vero e proprio investimento sul nostro futuro, sul nostro tenore di vita futuro, sulla nostra serenità futura. Però ancora una fetta di popolazione non adeguata aderisce alle forme di previdenza complementare. Non so se siamo ancora intorno al 25% della platea dei lavoratori italiani che ha uno strumento di previdenza integrativa. Ci faremo confermare questi dati dall'ospite di oggi, che è in assoluto il più autorevole che si poteva interpellare sulla materia, Mauro. Sì, è vero, noi scherziamo spesso, Deborah, diciamo ospiti di valore mondiale, però effettivamente un ospite più titolato di così non potevamo trovarlo per parlare di fondi pensione, di previdenza complementare, perché è ospite di Due Denari questa mattina Mario Padula, presidente Covip, commissione di vigilanza sui fondi pensione. Benvenuto presidente. Buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando e grazie dell'invito. Allora, presidente Padula, dicevamo appunto, prendiamo subito questa provocazione, per così dire, dell'ascoltatore, che stavo dicendo del lettore, ogni tanto mi confondo con i mezzi. Ma vedi che stamattina c'è probabilmente qualcosa nell'aria che ci fa incespicare con la parola, vabbè. Sì, un po' di stupidera probabilmente. Allora, no, ritorno serio e le chiedo, questo ascoltatore dice, ma con i lavori saltuari come facciamo a prevedere anche di dare dei soldi ai fondi pensione? È un sentire diffuso, ne parliamo spesso, cerchiamo anche di confutarlo per quanto possibile, ma a questo punto le passo direttamente la parola. Perché questo approccio non è conveniente, non è adeguato, presidente Padula? Dunque, certamente con i lavori saltuari, con le carriere discontinue, si pone un problema sia per la previdenza complementare, ma in generale per tutto il sistema previdenziale, che è un sistema che utilizza ormai da tempo dei meccanismi di calcolo delle prestazioni che premiano appunto le carriere più continue, sono dei meccanismi di calcolo che connettono direttamente i contributi alle prestazioni, e sono i meccanismi di calcolo cosiddetti contributivi, quindi a carriere più continue corrispondono più contributi nel corso della carriera lavorativa e quindi prestazioni più alte. Ciò detto però è chiaro che conviene sempre contribuire anche poco, perché nel tempo poi anche una piccola contribuzione anno per anno può rappresentare poi una prestazione, può aiutare a costituire, può rappresentare una prestazione adeguata che integri certamente quella di base alla fine della carriera lavorativa. È sempre meglio contribuire poco piuttosto che non contribuire affatto, diciamo, questo è quasi una banalità matematica che lo suggerisce. Ecco, però mi scusi, la interrompo. Solo per dire questo brevemente, matematicamente conviene che questo poco cominci presto? Esatto. Cioè, certo. Tanto più se si comincia, sappiamo che in questi anni i giovani hanno grandi difficoltà ad entrare stabilmente nel mondo del lavoro, allora cominciare presto vuol dire garantirsi un po' più, una copertura decisamente più robusta quando poi si arriverà anche soltanto alla mezza età, perché poi magari parleremo anche di altre provvidenze che il fondo pensione può erogare. Prego, Presidente. È certamente così, ma questo per effetto del cosiddetto interesse composto, cioè i contributi vengono investiti, questi investimenti maturano degli interessi, questi interessi si accumulano nel tempo, a loro volta maturano altri interessi sugli interessi, e tutto questo poi concorre alla formazione della prestazione finale. Quindi è bene cominciare presto, prima si comincia e prima si attiva questo meccanismo, che è un meccanismo positivo. Certo, Presidente, che poi negli ultimi anni purtroppo le condizioni economiche generali non hanno aiutato a sensibilizzare i lavoratori verso questo argomento, anche se poi quando si parla di pensioni in senso generale lo stato d'allerta mentale di tutti si alza improvvisamente, però sempre nei confronti, come dire, della previdenza pubblica. Su quella complementare appunto c'è sempre un pochino più di resistenza, come dicevamo. Ad oggi qual è la percentuale dei lavoratori che hanno sottoscritto un fondo pensione rispetto alla platea dei lavoratori? Sì, oggi siamo al 30% della forza lavoro, è un numero che è cresciuto nel tempo, è un numero che è destinato ancora a crescere, naturalmente però è un numero che poi cela delle differenze anche importanti, per esempio quella tra donne e uomini, l'adesione tra gli uomini, il tasso di adesione tra gli uomini è il 32,7%, tra le donne il 26,9%, differenze tra nord e sud, al nord soprattutto nelle regioni in cui sono presenti iniziative previdenziali di carattere territoriale, le adesioni raggiungono il 45-50% della forza lavoro, le adesioni aumentano con l'età, quindi ci sono delle tendenze abbastanza chiare, abbastanza evidenti, che mostrano delle differenze, quindi pur a fronte di una media del 30%, ci sono delle differenze nelle adesioni, che poi sono quelle differenze che un po' riproducono dualismi che vediamo altrove nella società italiana, in prima istanza nel mercato del lavoro. In un certo senso chi è più ai margini del mercato del lavoro finisce per essere anche ai margini del sistema della previdenza, non solo di quella complementare per la verità, ma del sistema di previdenza nel suo complesso. Mm-hmm. Ci sono poi tanti aspetti che non sono adeguatamente conosciuti dalla popolazione, della platea dei potenziali aderenti al sistema di previdenza complementare. C'è il grande pregiudizio, per esempio, che versando ad un fondo pensione mensilmente una quota per alimentarlo si sottragga una bella fetta di risorse appunto allo stipendio. Anche su questo forse, Presidente, bisognerebbe fare una campagna di informazione molto, molto intensa e sostenuta. Sì, degli sforzi sono stati compiuti e mi aspetto che verranno compiuti anche nel prossimo futuro. Come i vostri ascoltatori sanno, già ormai da un paio di anni è attivo il Comitato per la Strategia Nazionale per l'Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, che ha proprio tra i suoi obiettivi quello di appunto ridurre l'analfabetismo finanziario, che nel nostro paese, anche nel confronto internazionale, è particolarmente alto. Quindi uno sforzo in questa direzione si sta facendo, si farà, ci sono iniziative sia che riguardano l'educazione finanziaria in senso ampio, sia che riguardano più strettamente i temi di cui ci occupiamo, cioè i temi previdenziali. Poi affianco a un ruolo di formazione, appunto, che è un ruolo importante, c'è anche un ruolo di informazione nel quale poi l'autorità è più direttamente impegnata, perché informare è uno degli strumenti poi per un'autorità di controllo, di esercitare il controllo e la vigilanza e di porre, diciamo, le premesse affinché il sistema possa svilupparsi e funzionare in modo ordinato. Abbiamo fatto degli interventi recentemente proprio sul fronte dell'informazione a seguito del ricevimento della direttiva IORP 2, che è la direttiva europea più importante in materia, che è stata recepita recentemente nell'ordinamento italiano. E questi interventi, per essere, diciamo, coinciso, questi interventi vanno appunto nella direzione di rendere il più possibile fruibili le informazioni, rendere più evidenti possibili informazioni più rilevanti, con lo scopo anche di evitare quel sovraccarico informativo che tipicamente fa sì che troppa informazione alla fine diventi poca informazione. Quindi ci sono dei lavori in corso anche sul fronte dell'informazione, oltre che della formazione. Molto è stato fatto, certamente c'è ancora da fare. Intanto qualche domanda, se volete, la potete rivolgere a noi. Vedo che già il centralino questa mattina ha ripreso a squillare, e per fortuna su un tema diverso da quello più gettonato in questi giorni. 800 24 00 24, chiamateci, e insieme al presidente Padula volentieri risponderemo alle vostre considerazioni, così come potete continuare a scriverci. Potete continuare a scriverci al 349 238 6666. Vedo in fibrillazione questa mattina anche WhatsApp su questi argomenti. Evidentemente, insomma, siamo andati al cuore di un tema sempre vivo nella testa delle persone, anche se non sempre riescono ad avere la serenità sufficiente per metterci la testa, fare una bella chiacchierata con un consulente, con un esperto di questo tema, per capire qual è la forma migliore per sé. Tra l'altro ci scrivono anche degli ascoltatori, ne torniamo a parlare tra pochissimo con il presidente Mario Padula, il presidente Covip, per lamentare anche, diciamo, la poca informazione o l'informazione frammentaria che viene data agli sportelli, parlo di sportelli in genere, quindi bancari, postali, assicurativi. Ci scrive ad esempio un ascoltatore, dice: ho aderito a un fondo pensione aperto, credo che sia un disincentivo ad aderire a questo tipo di previdenza sia dovuto al doversi interfacciare con anche assicurazioni che non sempre informano in modo corretto. Nel mio caso, nonostante avessi letto sul sito Covip la possibilità di aderire a fondi pensione aperti, in diversi casi mi avevano risposto che per me non era possibile. Quindi sarebbe interessante capire che profilo intanto, ha questa persona come lavoratore, anagrafico anche. Intanto io ti butto lì, Deborah, www.covip.it, e così se qualcuno vuole può fare un giretto. No, tu non puoi vedere, tu adesso devi dirci come stanno andando le borse. Meazza, ma quante ne sai? Due di denari. E non la luna di ne non conosce default. Senza banche centrali, senza WTO. Ma quali fondi pensione? Che qua non c'è una lira. Facciamo una cosa, anziché di contribuire per l'INPS che si piglia i soldi, io mi apro una buona pensione privata, come dite voi. Ma non pago a due enti per la pensione io. Mettetevelo nella testa. Questo è il vero problema. Ho l'INPS o la previdenza privata. Io, su consiglio di un consulente indipendente, ho unificato il più possibile i fondi pensione a cui aderivo, per contenere chiaramente a tassi bassi il costo dei fissi. Ma è così prudente tenere tutto in un fondo pensione? Io poi ho altre cose come assicurazioni, ok, però diciamo sulla parte previdenziale, oppure è opportuno almeno crearsi due fondi pensione? Beh, certo, l'ascoltatore ascolta i nostri suggerimenti, no? Noi suggeriamo sempre di diversificare, ma forse questo eccesso di diversificazione non è un buon approccio per il fondo pensione, perché non parliamo di investire e proteggere, non mettere tutte le uova in uno stesso paniere. Ma infatti qui, guarda, l'occasione è propizia, avendo noi in collegamento il presidente della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Mario Padula, abbiamo l'opportunità di chiarire quanto evidentemente non è ancora così chiaro nel sentire comune. Perché, presidente Padula, allora il primo ascoltatore, il primo messaggio diceva l'INPS, no, in realtà qui stiamo parlando di previdenza complementare, quindi parliamo di fondi pensione di categoria oppure aperti, cioè non legati necessariamente a una certa categoria di lavoratori. Il secondo ascoltatore probabilmente aveva il pensiero alle commissioni che i prodotti finanziari in genere ci chiedono, quindi anche quelli di natura previdenziale. Ma anche qui stiamo un pochino forse confondendo piani diversi, non le pare? Sì, allora, sul primo intervento del primo ascoltatore, allora è forse bene tenere presente che anche in Italia il sistema pensionistico è articolato su tre pilastri. Il primo pilastro che è un pilastro di base obbligatorio, il secondo che fa riferimento ai fondi negoziali, il terzo che è un pilastro invece individuale, fa riferimento ai fondi aperti ad adesione individuale e ai PIP. Ovviamente diciamo, il peso di ciascun pilastro dipende dal peso degli altri, quindi il peso del secondo e del terzo pilastro non sono indipendenti dal peso del primo nell'assicurazione del cosiddetto rischio di longevità, cioè tutti i pilastri pensionistici concorrono a formare una prestazione previdenziale che serve ad assicurare il rischio di longevità, cioè il rischio che ciascuno di noi fronteggia di sopravvivere alle risorse che ha accumulato o nel primo o nel secondo o nel terzo pilastro per sostenere il reddito all'uscita dal mercato del lavoro. Mm-hmm. Sì. Quindi chiaramente diciamo noi, questo lo vediamo anche dai dati che internazionali, cioè è evidente che appunto dove il primo pilastro è più grande, il secondo e il terzo tendono a essere più piccoli, questo è un'evidenza insomma, abbastanza chiara che noi riportiamo ogni anno anche nella relazione. Certo, quindi, storicamente presidente, l'INPS, per dire il maggiore degli istituti di previdenza che erogano pensioni di primo pilastro, l'INPS fino a un certo numero di anni fa ha erogato pensioni, diciamo così, robuste rispetto ad esempio all'ultima retribuzione percepita quando ancora si lavorava. Non è più così e non sarà più così in futuro. Certo, allora l'articolazione su tre pilastri, di cui uno, quello di base, funziona con il principio gestionale della ripartizione, gli altri due, il secondo e il terzo, con quello della capitalizzazione, risponde proprio a questa esigenza, cioè all'esigenza di rendere da un lato il sistema nel suo complesso più sostenibile dal punto di vista finanziario e dall'altro anche più sostenibile dal punto di vista sociale, quindi dell'adeguatezza delle prestazioni finali. Come i vostri ascoltatori sanno, sul primo pilastro si è molto intervenuto nel tempo a partire dagli anni 90 e si è intervenuto nel senso di rendere appunto questo primo pilastro più sostenibile, quindi con interventi che hanno innalzato l'età di accesso alle prestazioni e hanno modificato il modo in cui le prestazioni si calcolano, rendendo diciamo, il sistema complessivamente, passatemi il termine, un po' meno generoso. E poi però il legislatore in quella stessa fase aveva appunto previsto di attivare questi ulteriori pilastri pensionistici che invece funzionano a capitalizzazione e che quindi sono esposti a rischi diversi, cioè non al rischio della bassa crescita sia demografica che economica, che è il rischio che tipicamente rende meno sostenibili i pilastri che funzionano a ripartizione, ma altri diciamo, rischi. Quindi è una, anche qui è un elemento di diversificazione, è una ragione di diversificazione quella per cui i sistemi pensionistici, ma non solo in Italia, sono articolati su più pilastri, quindi è bene appunto diversificare e questo mi porta anche a parlare del secondo ascoltatore. Sì. Beh, il consiglio che lui ha ricevuto, cioè di riunificare le diverse posizioni pensionistiche in un'unica pensione, è un consiglio corretto. Noi stessi abbiamo fatto interventi in questo senso nella nostra attività di vigilanza. Perché? Perché il fondo pensione già di per sé è un investimento diversificato. Per essere chiari, i fondi pensione investono sui mercati internazionali, tipicamente su mercati che sono vigilati, che sono regolamentati e lo fanno appunto seguendo una logica di diversificazione. Quindi avere due fondi pensione uguali significa solo replicare dei costi che per ciascun fondo ci sono, perché sono dei costi che sono connessi alla gestione finanziaria e alla gestione amministrativa. Quindi è certamente meglio riunificare in un'unica posizione il, appunto, la propria esposizione, come dire, al risparmio previdenziale di tipo complementare. Presidente, il fatto di essere degli strumenti che investono sui mercati internazionali, anche se va precisato che proprio essendo degli strumenti di previdenza, quindi a fini previdenziali e pensionistici, hanno generalmente delle gestioni più prudenziali, quindi non si espongono a rischi enormi, e però subiscono i contraccolpi anche delle fasi negative del mercato finanziario. Come ci solleva Marcello da Torino, che voleva intervenire proprio su questo punto. Marcello, benvenuto. Buongiorno a voi e complimenti sempre per la trasmissione. Grazie. Sì, c'è questo aspetto che non è un bel aspetto per incrementare l'utilizzo dello strumento, che è quello che non ci sia una garanzia minima di rendimento. Quindi effettivamente tu parli da una parte di pensione, quindi nell'immaginario dell'uomo comune metto via i soldi per la vecchiaia, dall'altro in realtà stai parlando di un investimento e quindi rischi, come è successo anche a me, di farti i conti di aver versato 7.000 euro, dici un giorno te ne ritrovi che sono 6.900, ma come mai? Certo, Marcello. Allora intanto lei da quanto versa, per esempio? Da quando hai iniziato? Io adesso ho cominciato a versare che era il 2007, poi ho interrotto per un paio d'anni, nel senso che il primo prodotto naturalmente era completamente ciucco, era Unipension dell'Unicredit e si non dica così, che ci fa pure andare nei guai. Era soddisfatto della prima soluzione. No, credo che sia stata ammissione anche loro, nel senso che poi è sparito, infatti, e si sono affidati poi ad altri strumenti. No, ma non eravamo gestori. Preoccupati del suo giudizio, eravamo preoccupati perché preferiamo non fare mai nomi di prodotti o di istituti. Poi il giudizio sullo strumento. La mia sensazione è sempre stata questa, che questi prodotti fossero più finalizzati a chi li gestisce per produrre business, che, come dico, alle persone normali, perché se no, chiamando un prodotto Unipenso, io credo, da uomo della strada, bisognerebbe garantire quel 2%, quell'1,5% a cui al di sotto non si va. Se no, in realtà, cioè, voglio dire, comprare un box, investire nell'oro, fare altre cose, forse... Ma infatti la diversificazione intelligente è questa, insieme ad uno strumento finanziario, farsi qualcosa di molto più prudente. La diversificazione per chi ha 1.000 è facile. Ha ragione, per chi ha 100, ha ragione, Marcello, ha ragione, ha totalmente ragione. Presidente Padula, allora, lui tra l'altro, Marcello, ha citato una banca e diciamo che sul mercato ci sono probabilmente attori che hanno un'esperienza super consolidata e quasi esclusivamente specializzata nel mercato della previdenza complementare. Poi parallelamente anche l'industria bancaria ha provato a mettere a disposizione nel proprio catalogo commerciale anche questi strumenti, magari non essendo esattamente pronti a offrire anche questo tipo di consulenza ai propri clienti. E tra l'altro questo è un aspetto che viene sottolineato anche da molti altri ascoltatori che continuano a dire: sono andato allo sportello della mia banca, ma volevo il fondo pensione, mi hanno offerto il PIP, eccetera. Quindi che cosa le suggerisce l'esperienza di Marcello? Sì, nel 2018 allora, effettivamente anche per i fondi pensione è stato un anno non brillante, per esempio. Allora, certamente, diciamo, gli andamenti di mercato pesano anche sugli andamenti dei portafogli dei fondi pensione. Però va ricordato anzitutto questo: i portafogli sono dei portafogli diversificati, quindi sono dei portafogli che sono nelle migliori condizioni per assorbire le conseguenze negative di un crollo di mercato. Pensate per esempio a cosa è successo proprio negli anni in cui il nostro ascoltatore ha cominciato a investire, cioè il 2008, no? Quello è stato un annus horribilis per le economie di tutto il mondo e per i mercati finanziari in particolare. In quell'anno, per dare un numero, il Dow Jones ha fatto il meno 34%. Ora immaginate di investire in quell'anno 100 euro, di mettere 100 euro in un fondo pensione e di mantenerli fino al 2019, quindi di investirli, diciamo, fino al 2019. Ora, in quell'anno, nel 2008, effettivamente quei 100 euro si riducono, però se mantenuti nel fondo pensione fino al 2019, quei 100 euro diventano 145 euro. Questo che cosa significa? Che quando si valuta un investimento in un fondo pensione, bisogna avere un orizzonte temporale ampio, 10 anni, 15 anni, 20 anni, che sono gli orizzonti temporali propri di chi fa un investimento e che lo accompagna o la accompagna durante tutta la carriera lavorativa, quindi si possono sì registrare perdite in un singolo anno, è successo anche nel 2018, però nel 2019 per esempio queste perdite sono state ampiamente recuperate. Certo. Quindi la logica, l'ottica è quella del lungo periodo, non è quella appunto dell'investimento, del risparmio gestito, dell'investimento più speculativo che invece guarda. Anche perché, Presidente, mi scusi se la interrompo, adesso c'è il traffico, ma volevo anche sottolineare, se non me lo ricordo male, questo aspetto, che magari tu nel corso della tua vita di lavoratore che versa puoi certamente investire su linee particolarmente aggressive, ma man mano che si avvicina il momento dell'erogazione della rendita, in realtà poi il fondo si avvicina a posizioni più prudenziali anche nella gestione, proprio per, credo, statuto, no? Sì, questo si può fare in modo, questo lo può fare sia il lavoratore o la lavoratrice, diciamo, autonomamente, cioè gestendo muovendo i risparmi tra i diversi comparti, cioè i diversi portafogli che sono a disposizione, sia si può fare in modo addirittura automatico oramai, sì, con una logica che si dice di life cycle, per cui appunto il rischio, l'esposizione al cosiddetto rischio azionario è più elevata all'inizio della carriera lavorativa e si riduce via via fino praticamente ad azzerarsi alla fine della carriera lavorativa. Una marea di domande per il Presidente Padula stamattina, veramente, dovremmo richiamarlo al più presto. Intanto godiamoci questi ultimi 10 minuti, non prima però di... E non prima di aver fatto il nostro quiz, perché oggi regaliamo a chi ci telefona 800240024. Guarda, volevo essere generoso, oggi due regali. L'instant che abbiamo oggi mandato in edicola con il Sole 24 Ore dedicato al coronavirus, tutto quello che serve sapere, e in aggiunta mi voglio rovinare anche l'instant invece di pochissime settimane fa sulle prospettive di investimento per i mercati finanziari. Come proteggere i risparmi, sì. Domanda facilissima perché l'ho fatta io e non Deborah, che è sempre molto molto cattiva. Vogliamo sapere cosa significa COVIP, traffico. Due di denari. Si apre il coronavirus shop. Ah no, scusa, non è quello lì. No, qui no, non siamo mica serpenti corallo noi. Allora, 800240024, al primo che chiama, la prima che chiama, risponde correttamente alla domanda, in regalo da parte mia, proprio mio personale, il nostro instant book, un centinaio di pagine sul coronavirus, le risposte degli esperti, le risposte dei medici, le indicazioni per i mercati, le indicazioni per le imprese e i lavoratori. Oggi ne dico la con il Sole 24 Ore, ma per uno o una di voi invece in omaggio. E voglio rovinarmi anche il nostro instant realizzato da pochissimo appunto sulle prospettive e i pericoli dei mercati finanziari nell'anno 2020. Telefonate, prenotatevi numerosi. Torniamo invece, cara Deborah, a parlare con il Presidente Padula. Forse non ho ricordato però la domanda, mi viene in mente. Infatti, no, ero così ansioso di tornare alla cosa. Sai che cosa? E lui dico, ma me la son persa io? Glielo dico, non glielo dico, oppure faccio la figura dell'oca Giuliva? Vai, qual era la domanda? Ripetiamo la domanda e vogliamo sapere... Vogliamo sapere cosa significa la sigla COVIP. Non COVID, quella la sapete bene in questi giorni. COVIP. 800-24-0024. Per rispondere in diretta raccogliamo solamente le risposte date con questa modalità. Presidente Padula, io sono veramente in imbarazzo perché le domande che le vorrei fare per accontentare i nostri ascoltatori sono molte. Un paio in ordine sparso. C'è chi lamenta, per esempio, che avendo completato il piano di versamento ed essendo andato in pensione, molto spesso il fondo non eroga immediatamente la rendita. Quindi quali sono i tempi tecnici anche di erogazione della quota mensile che ci spetta? Altri ascoltatori lamentano il fatto che lavorando in aziende piccole si fa molta fatica a interagire con il proprio datore di lavoro per convincerlo ad erogare la quota che spetterebbe di trattamento di fine rapporto e che potrebbe alimentare il fondo pensione. Quindi anche questo è stato un tema oggetto di grandi battaglie, se vogliamo, negli anni passati, appunto nel mondo del lavoro. Da che cosa vuole partire? Gliene ho messe giù un paio, ma adesso vediamo quali altre le possiamo fare prima di salutarci. Bene, allora la prima rapidamente, diciamo, i fondi normalmente sono assolutamente rapidi, quindi se c'è nell'erogazione delle rendite peraltro anche più rapidi di come, diciamo, non accada nel caso dello Stato quando deve erogare il TFS. Il trattamento di fine servizio, esatto, quindi, il TFS. Diciamo, le singole situazioni poi naturalmente vanno segnalate all'autorità e quando raggiungono una certa rilevanza vengono trattate nell'ambito della nostra attività di vigilanza. Invece riguardo al secondo punto, il secondo punto meriterebbe una risposta molto ampia, anche in relazione a come funziona il nostro sistema produttivo. Il nostro sistema produttivo è un sistema caratterizzato, diciamo, da piccole imprese o piccolissime imprese. Si tenga conto che sul totale degli addetti alle imprese, due terzi degli addetti alle imprese lavorano in imprese con meno di 50 addetti. Ricordiamoci che 50 è la soglia al di sotto della quale appunto il TFR non devoluto alla previdenza complementare rimane all'azienda. Quindi c'è evidentemente un problema su questo fronte, anche di possibile tensione tra lavoratore e datore di lavoro rispetto alla possibilità di aderire alla previdenza complementare. C'è da fare sicuramente su questo fronte. Noi stiamo cercando di fare la nostra parte valorizzando tutte le tecnologie di comunicazione e di informazione nei rapporti tra fondo pensione e aderenti e potenziali aderenti, cominciando proprio dall'adesione, cioè bisogna entrare in una nuova fase nella quale appunto i fondi pensione negoziali dovranno organizzarsi per rendere possibili delle adesioni online. Attraverso le adesioni online anche questa tensione possibile tra datore di lavoro e lavoratore nella fase di adesione si può certamente attenuare. Su questo tema la Covip ha avviato proprio una pubblica consultazione, perché sì, questo argomento è al centro di queste nuove istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza dei fondi, vero Presidente? Sì, certo, noi abbiamo, queste sono istruzioni di vigilanza che abbiamo, sono atti che abbiamo adottato nell'ambito dell'attuazione della direttiva IORP 2 che ho citato prima. E proprio nella trasparenza e nella informazione bisognerà, e quindi in generale nel rapporto con gli iscritti, bisognerà che i fondi si valorizzino e si dotino in qualche caso di quelle tecnologie di comunicazione e informazione che poi sono delle, diciamo, tecnologie assolutamente imprescindibili ormai nel terzo millennio, cioè ciascuno di noi le utilizza sia come consumatore che come risparmiatore, deve avvenire anche nel caso dei fondi pensione. Rapidissimamente sentiamo uno o due ascoltatori, se ce la facciamo. Nando da Napoli, deve essere telegrafico, la ringrazio. Dottoressa Rosciani, buongiorno, gentile dottoressa. Io sono un autoferrotramvire che per 41 anni ha prestato servizio in un'azienda di trasporto pubblico locale. Mm-hmm. Sono andato in pensione a dicembre 2016. Il fondo è stato solerte a liquidarmi ciò che il mio datore di lavoro ha versato, però si è fermato al 2015 mandandomi una raccomandata dicendo risultano da parte della sua azienda non versati contributi relativi alle mensilità, eccetera eccetera. Di un anno, quindi le mancava un anno. Il fondo provvederà pertanto alla liquidazione di quanto maturato successivamente al saldo del suo datore di lavoro. Ecco, io sono un operaio, per 41 anni ho avuto l'onore di prestare servizio nella mia azienda. Certo. Come autoferrotramvire. Parlando di un fondo pensione di categoria. Il fondo è stato solerte, però io sono un operaio, come mi devo muovere? Grazie, diciamo. Nando. Presidente Padula, mi scusi Nando, ma qua siamo in chiusura. Presidente Padula, può un'azienda decidere autonomamente di interrompere ad un certo punto i versamenti, oppure è corretto che lo abbia fatto un anno prima che Nando andasse in pensione? No. No, un'azienda non può interrompere, adesso bisognerebbe conoscere tutti i dettagli del caso specifico, ma naturalmente l'azienda non può interrompere né sottrarsi da un obbligo contributivo che è stabilito per via contrattuale. E se lo scopre un lavoratore, che cosa può fare? Ormai Nando è andato in pensione, il fondo eroga, c'è poco da fare? Diciamo no, Ci pensiamo, guardi, facciamo una cosa, diciamo, magari ci facciamo mandare una risposta. Bisogna conoscere il dettaglio, nel dettaglio la situazione per sapere che cosa si può fare, ma si possono fare delle cose. Assolutamente, ci sarebbe stata Emilia da Andria, non ce la facciamo, altri ascoltatori che chiedevano la portabilità da un fondo ad un altro, da un chiuso ad un aperto, da un aperto ad un PIP, rifacciamo al più presto un'altra trasmissione, promesso. Prenotiamo subito il presidente Mario Padula, se avrà la cortesia di tornare nostro ospite. Grazie presidente. Intanto, e invece sentiamo se Francesco da Roma indovina che cosa vuol dire la sigla COVIP. Francesco, buongiorno. Veloce. Commissione di vigilanza sui fondi pensione. Avrà da leggere un sacco lei nel weekend, perché le mandiamo le nostre guide, i nostri instant book. Presidente Padula, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, arrivederci. Buon lavoro naturalmente. Che si fa? Allora, mi è giunta voce che domani sarò da sola. Domani ho un impegno. Guarda, sei proprio una brutta persona. Mi lasci in questi periodi epidemici, mi lasci così. Ti lascio qui a porte chiuse. Buona giornata.